la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, inframmezzando per non più di qualche secondo oramai la somma di sigle e pubblicità. Siamo al nostro appuntamento quotidiano, grazie per ascoltarci in diretta o in podcast. Scrivete alla versione di Oscar, @radio24.it. Vado immediatamente al punto del giorno per chiedervi se volete di darci la vostra opinione. 800240024, il numero per gli sms, 349-238-6666. Oggi parliamo delle intenzioni dichiarate nel suo intervento in Parlamento dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha fatto il discorso ufficiale per presentare il suo programma dei 1000 giorni, le tante riforme, per così dire. È stato un discorso che più di giornalisti parlamentari, twittando in diretta, in realtà sono rimasti tutti un po' delusi, cioè, niente di particolarmente nuovo, e anche nel discorso, poi negli interventi delle altre forze politiche alla Camera, niente di particolarmente significativo di nuovo. Detto questo, lo commenteremo poi con l'ospite, il professor Tito Boeri, che insegna economia alla Bocconi ed è animatore da anni di un sito, si chiama lavoce.info, che immagino molti di voi conosceranno. Chi non lo conosce, vada a leggere con continuità i contributi di molti economisti, intellettuali italiani sui maggiori temi del dibattito pubblico economico, ma non solo economico, il welfare e i diritti. E con lui vedremo un pochino che cosa ne pensa. Hanno fatto sul sito lavoce.info, trovate un editoriale di tutti i redattori che coordinano il sito, abbastanza critico su questi primi 6 mesi. Non stiamo parlando di economisti che hanno pregiudiziali contro la sinistra, contro il PD o contro Renzi, è gente che semplicemente guarda le cose in base a quello che avviene. Qualche flash per capire rapidamente qual era il tono di Matteo Renzi, e poi andiamo subito con Tito Boeri a un primo commento. E il file che sentiamo per qualche secondo è Matteo Renzi che critica i professionisti della tartina, come le chiama lui, cioè gli economisti con cui ce l'ha, perché avrebbero sbagliato tutto sulla crisi, continuano a sbagliare le ricette da usare. Ma sentiamo qual è il tono del Presidente del Consiglio stamattina. Elaboriamo una polemica non semplicemente istintiva rispetto a quelli che sono stati definiti professionisti della tartina, ma una polemica che è oggettiva rispetto ai presunti esperti che in questi anni hanno sottaciuto o forse non capito la gravità della crisi. Non l'hanno prevista, prima ne hanno sottaciuto la gravità, poi hanno sbagliato a dare le risposte e adesso dall'alto della propria sicumera immaginano di spiegare a noi che cosa va fatto e che cosa non va fatto. Rispetto al derby tra professionisti della tartina e Italia che si spezza la schiena, noi stiamo con questa seconda parte del paese. Allora, detto questo, insomma, io trovo che descrive tutti gli economisti, le più diverse scuole, come i professionisti della tartina, a me non piace come tono. Poi credo che non sia vero, poi è molto difficile dare risposta a 20 anni di purtroppo sbagli fatti dall'Italia e in un contesto internazionale che poi ne fa anche a propria volta. Però detto questo, a me non piace troppo, magari ad alcuni di voi sì. Un altro brevissimo flash, questo è relativo invece al mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è un tema su cui il Presidente del Consiglio torna con frasi molto dure, cioè fa capire che lui è per intervenire per decreto e per cambiare l'articolo 18 e le garanzie. Poi tutto questo fa un po' a pugni con quanto come giornalisti dobbiamo documentare sulle cronache del Job Act, dove pare invece l'opinione per il momento più convergente è quella di fare un testo che rinvia tutto ai decreti di attuazione invece che fare scelte così chiare. Ma sentiamo il passaggio di Renzi stamattina e poi diamo la voce a Tito Boeri per un commento. Sentiamo Renzi. Al termine dei 1000 giorni il diritto del lavoro non potrà essere quello di oggi. Io ritengo, assumendomi la responsabilità di quello che dico, che non ci sia cosa più iniqua in Italia di un diritto del lavoro che divide in cittadini di serie A e di serie B. Tu sei una mamma di 30 anni, sei dipendente pubblica o privata, hai la maternità, sei una partita IVA, non conti niente. Tu sei un lavoratore, stai sotto i 15 dipendenti, non hai alcune garanzie, stai sopra sì. Tu sei uno che ha diritto alla cassa integrazione, dipende dall'entità, dall'importanza, dalle modalità della cassa integrazione ordinaria, di quella straordinaria, di quella in deroga. Questo è un mondo del lavoro basato sull'apartheid. Personalmente dico a quella parte di sinistra più dura rispetto alla necessità di cambiare le regole del gioco sul lavoro, che per come la interpreto io La sinistra è combattere l'ingiustizia, non difenderla. Allora, professor Tituberi, buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi per qualche minuto. Grazie a voi. Che cosa pensa di questi due passaggi del Renzi di stamattina? Da una parte la polemica contro i professionisti della Tartina, tutti gli economisti, insomma, che pretendono di avere ricette, mentre invece il governo ne ha di migliori, e ho richiamato a chi ci ascoltava prima che lei fosse collegato, che voi avete sul sito lavoce.info, di cui lei è fondatore e animatore, un editoriale redazionale, quindi scritto con parecchie penne esperte di parecchi temi di cui vi occupate strutturalmente, che è, insomma, documentalmente però critico su questi sei mesi dei tanti annunci e delle cose fatte. E poi anche che cosa pensa di questo secondo passaggio? Siamo davvero, bisogna aspettarci un intervento sul mercato del lavoro così energico come Renzi fa pensare, rivolgendosi a un pezzo del suo stesso partito, della sinistra, e poi al sindacato? Come la pensa lei? Ma sul primo aspetto io non riesco a capire bene con chi Renzi ce l'abbia, perché sin qui aveva sempre in qualche modo indirizzato i suoi strali contro coloro che dicevano che le cose andavano male, dicendo che erano dei gufi e degli uccelli del malaugurio, insomma persone che cercavano di rendere le cose più grigie di quanto fossero, e difatti non a caso Renzi in questi mesi ha cercato di dispensare il più possibile ottimismo sulle condizioni dell'economia italiana. Adesso sta dicendo esattamente l'opposto, cioè sta dicendo che ci sono delle persone che hanno sottovalutato la gravità della crisi, ma forse dovrebbe andarsi a riprendere le cose che lui stesso ha detto in questi mesi, che erano esattamente proprio di questo tipo. Se guardiamo anche all'OCSE, noi vediamo che se c'è un difetto che è stato fatto da appunto questi gufi uccelli del malauguri, è stato che sì, forse in effetti potevano fin da subito riconoscere che le condizioni, che qui c'è un problema strutturale dell'economia italiana che va affrontata, era una cosa che peraltro noi diciamo, economisti, almeno il gruppo della Voce, questo si può dire, noi non siamo persone che la pensano tutti allo stesso modo, ma sicuramente non abbiamo mai lesinato critiche e diciamo abbiamo sottovalutato la gravità della situazione economica del nostro paese, un paese in cui è difficilissimo capire se siamo in recessione o se siamo in un declino inarrestabile, le due cose sono talmente strettamente intrecciate che è difficilmente distinguere l'una cosa dall'altra. Io ricordo sul solo lavoro, a chi è in ascolto, sì. Aspetti un secondo l'intervallo solo per dire che anche oggi Certo Studio Confindustria ha aggiornato le sue stime per il 2014, allineandosi alle stime al ribasso dell'OCSE sul PIL 2014, quindi meno 0,4% anche per il Certo Studio Confindustria, meno 2,4% sugli investimenti fissi lordi, di cui in costruzione meno 2,7%, meno 0,6% stima 2014 Confindustria sugli occupati, PIL verso il 137%. Del PIL. Veniamo alla seconda questione invece, quella del mercato del lavoro. Lei stamattina ha rilasciato, professore, un'intervista al Mattino che a me è piaciuta molto, perché a un certo punto ha detto che gli imprenditori stranieri, per crederci nell'Italia, vorrebbero avere la possibilità di dialogare con i propri dipendenti, con chi li rappresenta, però di tutto, al di là dei limiti posti dal contratto nazionale di categoria, parlare anche di salario in accordi aziendali. E lei dice: se vogliamo la vera competitività, penso che noi dobbiamo fare una scelta di questo tipo, cioè che il contratto aziendale debba occuparsi anche del salario, dandogli una importanza che è superiore a qualunque altro livello di contrattazione. Sono più o meno le sue parole testuali. Ci aspetta qualcosa di simile, secondo lei? Temo di no, almeno al Senato si è parlato di tutto tranne che di salari, come se i salari non avessero nulla a che vedere con il mercato del lavoro. Talvolta ci si è occupati anche di dettagli molto specifici, controlli, mansioni, trasferimento di ferie a colleghi, tanti aspetti molto specifici che peraltro forse non dovrebbero essere propri di una legge delega. La legge delega è qualcosa che trasferisce al governo il compito poi di avere delle norme su aspetti molto specifici, quindi dovrebbe limitarsi a fissare dei principi generali. Bene, i principi generali sono stati su cose molto, invece di fare principi generali si è parlato di cose molto specifiche, e di salari e di contrattazione non si è detto praticamente nulla, forse perché si pensa che questa sia una teoria delle parti sociali, ma in realtà in altri paesi anche le leggi dello Stato intervengono su questi aspetti e pongono ordine, soprattutto se le parti sociali non sono in grado di farlo loro stesso questo ordine. Io penso che in Italia avrebbe davvero senso attuare una riforma di questo tipo, in cui quando si fa contrattazione aziendale aziendale, questa contrattazione aziendale prevalga su tutti gli altri livelli di contrattazione, fatte salve unicamente le leggi dello Stato. È una norma che ci metterebbe al pari con la Germania, con la Spagna, e che a mio giudizio sarebbe di grande incoraggiamento per investitori stranieri che vogliono venire da noi, che temono sempre, arriviamo e poi non possiamo decidere su nulla perché le decisioni sono già imposte dall'alto. Se vediamo anche molte crisi aziendali che ci sono state negli ultimi anni, hanno proprio come e molte minacce di delocalizzarsi, hanno proprio tratto origine da questo. Poi ci sono tutti quelli che noi non vediamo nei dati, nelle storie, perché non appaiono del tutto, che hanno deciso di non venire da noi semplicemente perché queste condizioni non c'erano. Quindi io credo che questa sarebbe una riforma molto importante per il nostro mercato del lavoro. Ora, noi siamo in una condizione nella quale invece il contratto nazionale di categoria, diciamo, va praticamente al 95% della retribuzione fissa. Un'impostazione nella quale il contratto nazionale di categoria si occupasse solo di diritti più che altro, demandando, come lei ha spiegato, alla contrattazione aziendale il più del salario, o comunque una quota molto elevata, magari fissando solo nel contratto nazionale i minimi salariali, veramente i minimi, lasciando poi il contratto aziendale. E il contratto aziendale che si occupa anche poi dei turni, dell'utilizzo degli impianti, cioè di tutto ciò che serve a rispondere in maniera elastica all'andamento della domanda. Secondo lei, perché il sindacato confederale, qui non si tratta di dire la CGIL, perché sono un po' tutti i sindacati da questo punto di vista, considerano questa proposta, quella che ha appena illustrato, come una specie di attentato? Perché? Io credo che si tema il fatto, siccome in Italia abbiamo tantissime piccole imprese o medie imprese, che in molte aziende non si riesca a fare contrattazione aziendale, per cui superare o ridurre il peso del contratto nazionale implichi di pari passo il fatto che si indebolisce qualsiasi forma di contrattazione collettiva. In realtà la riforma che io propongo non vuole arrivare a questo, semplicemente si limita a dire dove non c'è la contrattazione aziendale c'è il contratto nazionale, ma dove sta la contrattazione aziendale questa ha prevalenza sulla contrattazione nazionale. Sarebbe un modo per incentivare davvero la contrattazione aziendale, perché oggi questa non avviene, c'è una quota decrescente di imprese che fa contrattazione cosiddetta di secondo livello, nonostante siano stati introdotti anche degli incentivi fiscali molto costosi, perché noi quasi diamo un miliardo all'anno per dare questa detassazione dei cosiddetti premi di produttività, e in realtà da quando ci sono questi incentivi fiscali la quota di imprese che fanno contrattazione secondo livello si è solo ridotta. Perché? Perché un datore di lavoro non ha nessun incentivo a sedersi a un tavolo negoziale quando sa che i cambiamenti salariali che può introdurre a livello aziendale possono solo aumentare i salari già decisi a livello nazionale. Il datore di lavoro vuole mettersi in una condizione in cui, se l'impresa va bene, pagherà dei salari più alti, se l'impresa va male però potrà anche pagare dei salari più bassi. Vuole questa flessibilità, vuole poter incentivare anche se gli si impone questa cosa non può farlo. Se invece noi decidiamo che il contratto aziendale prevale sugli altri livelli di contrattazione, credo che questo problema lo risolveremo. Professore, senta, è molto difficile avere dalla politica, secondo me, un'attenzione sulle determinanti, diciamo, di medio-lungo periodo. Quando lei diceva, giustamente, secondo me, in Italia oramai, per essere seri, dobbiamo dire una piccola grande verità, non siamo più in grado di poter dire con certezza se non è un declino di medio-lungo periodo, per restare al quale poi a quel punto bisogna fare delle cose inenarrabili, oppure se con la ripartenza generale, la domanda internazionale e così via, in qualche maniera con un po' di interventi ordinari ma decisi ce la si fa. Io le faccio un esempio, perché io non vedo mai una politica attenta a un dato. Mentre tutti ripetono il tasso di disoccupazione, quello generale e quello giovanile, magari dimenticando che quello giovanile è solo tra chi cerca lavoro poi in quelle fasce d'età, però non vedo mai una politica che guarda a una cosa che a me sembra molto più grave, cioè la percentuale di occupati e di attivi, che è enormemente bassa e che purtroppo secondo me descrive un andamento di medio-lungo periodo che è molto più serio di poter sperare di risolvere con qualche trovata sul mercato del lavoro inciso, che magari poi non utilizziamo bene, come la garanzia giovani, che a me sa tanto di presa per i fondelli, per i milioni, per tutti quelli che si sono iscritti. Secondo lei perché la politica interessa più il risultato sui disoccupati, posti di lavoro che si creano con la spesa, come dicono tutti, o con gli incentivi, piuttosto che il problema è che lavoriamo un italiano su tre rispetto a più di due tedeschi su tre? Beh, in genere il tasso di disoccupazione è una grandezza che viene presa come riferimento, sono d'accordo con lei, il tasso di occupazione, quante persone lavorano, infinitamente più, molto più importante, anche perché da questo determina insomma il livello del reddito che si può avere in un paese, ed è fondamentale perché noi lasciamo fuori delle persone che hanno un potenziale molto alto, le donne per esempio, le donne in Italia hanno un capitale umano più alto degli uomini eppure sono fuori dal mercato del lavoro, non sono occupate, hanno un tasso di occupazione molto basso, quindi sono problemi che però richiedono di essere affrontati con scelte complesse eccetera, e i politici invece guardano proprio a tempi molto stretti quindi ai dati sul tasso di disoccupazione, preoccupandosi di questo enorme problema che c'è nella partecipazione al mercato del lavoro in Italia. Vi faccio un'ultima domanda: sta garanzia giovane dal vostro punto di vista perché non ha, io dico che non ha funzionato, ecco, come non hanno funzionato di sicuro gli incentivi, quelli Letta a favore dei contratti a tempo indeterminato. Io credo che quando la politica dice all'impresa, quando il cavallo non beve, te li assumi a tempo determinato, ti do incentivi maggioritari per far quello, comunque tu non li fai assumere, non le fai bere all'impresa. Ma detto questo, garanzia giovani che aveva un impianto diverso, perché non funziona? La garanzia giovani, insomma, mi sembra che sia la cronaca di un fallimento annunciato. L'avevamo detto tutti che in questi termini non poteva funzionare, perché noi siamo un mercato del lavoro depresso, in gravissime condizioni, in cui abbiamo storicamente avuto dei centri dell'impiego che non funzionano, che hanno dei pessimi rapporti con i datori di lavoro, e che quindi prendersi un impegno di questo tipo equivaleva a prendere in giro migliaia di giovani. Quello che è successo è che ne abbiamo circa 200.000 giovani che si sono iscritti, e a fronte di questi 200.000 giovani che si sono iscritti, i centri per l'impiego, che io sappia, hanno censito poco più di 100 posti di lavoro. Poi altri sono stati raccolti dalle agenzie interinali, che sono una capacità maggiore, ma comunque si va in totale attorno agli 11.000, ecco, 12.000 posti, quindi sono davvero un'inezia rispetto al numero di persone che si sono. E secondo me noi abbiamo fatto un massacro di fiducia in quei giovani che si sono iscritti. Però detto tutto questo, ovviamente ciascuno poi la può pensare come vuole su Renzi. Io ringrazio il professor Tito Boeri, oggi abbiamo pochissimi minuti, quindi io a questo punto devo dire a Claudio da Roma, Paolo da Siena, che oggi, siccome abbiamo pochissimo tempo e abbiamo anche bucato le strade, io vado alle strade, ma vi saluto, continuate su Radio 24 perché io non torno.